Ed ora ascolti il dialogo. Beh, è tardi. Dobbiamo andare. Sì, sì, certo. Però prima devo andare alla toilette. Andrea, ma è tardi. Sì, lo so, solo un minuto. C'è un bagno proprio qui. E va bene. Dov'è la tua macchina? È là, vedi? Sì, quella nera, a destra. Ci vediamo là fra 5 minuti, capito? 5 minuti. Capito, capito. E guidi tu. Io? Ma non so guidare. Ah, sì, va bene. Noi andiamo intanto. Andrea says, lo so. I know. And later, non so guidare. I can't drive. So, the same verb, sapere, can have 2 different meanings, know or can. You've already learned another verb meaning can. Potere. Posso pagare con la carta di credito? But sapere is used to express an ability or a skill. For instance, I can cook. I'm able to cook. So cucinare.